sembra impossibile. Un mondo nuovo per vivere, un mondo nuovo per vivere, un mondo nuovo per vivere. E non mi sembra possibile. Yeah.